I sette corvi. C'era una volta, in mezzo ad alte montagne, una valle piena di boschi. Un torrente di acqua limpida l'attraversava e sulla sua sponda c'era una casa di pietra, costruita con tanti sacrifici da un povero boscaiolo. L'uomo si era sposato e aveva avuto sette figli, tutti maschi, e poi finalmente una bambina. La piccola bambina era buona, carina e obbediente, mentre i maschi, così vivaci, rissosi e disubbidienti, erano il cruccio della povera madre. Quando una volta alla settimana il marito tornava a casa, stanco per il duro lavoro, la povera moglie non aveva il coraggio di raccontargli le malefatte dei figli per non angustiarlo e aumentare i suoi problemi. Un giorno i sette ragazzi combinarono un guaio più grosso delle altre volte, avvelenando con erba pericolosa il foraggio delle capre e della mucca. Non potremmo più avere latte né fare formaggi, gridava disperata la povera madre. E al colmo dello sconforto aggiunse: preferirei foste co corvi piuttosto che figli miei. A queste parole una nuvola oscurò il sole. Al posto dei ragazzi apparvero sette grossi corvi neri che volarono via. Quando il padre il giorno dopo tornò dal bosco e seppe ciò che era successo, rimase impietrito dal dolore. Ciò nonostante cercò di consolare la moglie, ma ormai la casa era piena di disperazione e di tristezza. Passò molto tempo e la bambina divenne più grandicella. Nel cuore aveva sempre il ricordo dei fratelli e raramente sorrideva, finché un giorno, piangendo, chiese alla mamma il permesso di andarli a cercare. La madre non seppe resistere alle preghiere insistenti della figlia. La piccola partì con un fagottino di provviste. Per 2 giorni camminò nei boschi finché all'alba del terzo giorno vide su uno sperone di roccia una strana casetta, più piccola del solito. Qualcosa la spinse a entrare nella casa, anche se il suo aspetto tetro non era certo invitante. Quando fu dentro e notò su un tavolo basso sette piccole tazze, il cuore le batté molto forte. Forse aveva trovato. Sul fuoco c'era un pentolone dove cuoceva una minestra di chicchi d'orzo e di grano. La bambina affamata se ne mise un po' in una tazza e mangiò avidamente. Poi salì al piano di sopra e, aperta una porticina, si trovò in una stanza sette piccoli lettini, ognuno con una coperta diversa. Si allineavano davanti a sé. Con le lacrime agli occhi, la piccola capì di aver finalmente trovato i suoi fratelli. Infine, stremata dalla fatica e dall'emozione, si appoggiò a uno dei lettini e poco dopo dormiva profondamente. Più tardi la porta della casetta si aprì, spinta da sette becchi impazienti, e sette corvi rumorosi sedettero intorno al tavolo. Finito di mangiare, dopo essersi infilati il berretto da notte, i corvi salirono per riposare e trovarono la bambina che dormiva nel lettino. Ma questa è la nostra sorellina, dissero tutti in coro, riconoscendo la piccola. In quel momento la bambina aprì gli occhi e, nel vedersi attorniata dai brutti uccellacci, si spaventò. Da un becco però uscì una vocina gentile: sei la nostra sorellina. La bambina si alzò con le braccia tese: vi ho trovato, vi ho trovato, non ho mai smesso di pensare a voi, finalmente siamo di nuovo insieme. I sette corvi la guardavano con tristezza e uno azzardò: non hai paura e ripugnanza di noi? La bambina li abbracciava a uno: vi voglio tanto bene, anche se siete diventati corvi, siete sempre i miei fratelli. A quelle parole gli uccelli si misero a piangere commossi. Perché non tornate a casa? Continuò la sorellina. Vorremmo tanto tornare, risposero ancora gli uccelli. Siamo pentiti di tutte le malefatte commesse. Ma come facciamo a presentarci davanti ai nostri genitori, brutti come siamo? Aggiunsero i corvi sconfortati. La mamma vi accetterebbe anche così, ne sono sicura. Vedrete se non ho ragione, rispose la bambina. L'insistenza della sorella riuscì a superare i dubbi e a convincere i sette fratelli a ritornare a casa. Non dovrai più faticare su e giù per le montagne come hai fatto all'andata. Per tornare ti porteremo noi volando. Stavano per partire quando il più piccolo dei fratelli ricordò: aspettate, aspettate, portiamo come regalo alla mamma tutte le pietruzze luccicanti che abbiamo trovato. Che belle, disse la bambina quando si vide portare il sacchetto in cui i fratelli avevano nascosto il loro tesoro. Ti piacciono? Forse sono anche preziose. Noi corvi, come le gazze, appena vediamo qualcosa che luccica, non riusciamo a trattenere l'impulso di prenderla. Questo luccica più degli altri. Guardate, forse è un diamante, continuò la bambina, rimirando la pietra. Finalmente partirono. Com'era diverso il mondo visto dall'alto. Dapprima la bambina aveva paura, ma i sette corvi volavano sicuri tenendola saldamente. E a un tratto videro la valle e la casetta in cui erano nati. L'aia era deserta e la piccola, quando furono a terra, disse ai fratelli: voi aspettate qui, vado io a chiamare la mamma. Vedrete che la faremo proprio una bella sorpresa. Dopo essere entrata silenziosamente in cucina, vide la povera donna che piangeva appoggiata al tavolo. L'abbracciò all'improvviso e la baciò dicendole: mamma, sono tornata e ho una grande sorpresa per te. Finalmente avevo paura di averti perso. La povera donna non sapeva più se ridere o piangere. Poi nel cortile trovò i corvi. Poveri figli miei, come mi siete mancati, come sono pentita di quello che ho detto. Mai una madre dovrebbe pensare una cosa così cattiva per i suoi figli. Potrete mai perdonarmi? Ma che dici mamma, anche noi siamo pieni di rimorso per la cattiveria che abbiamo dimostrato. E tutti rimpiangevano il passato. Fu allora che improvvisamente avvenne un nuovo prodigio. I sette fratelli cambiarono aspetto e tornarono ragazzi. Il padre, richiamato dal gran vociare, accorse e, nell'assistere alla scena, al colmo della gioia esclamò: sia ringraziata la provvidenza, finalmente rivedo i miei figli. E anche lui si trovò abbracciato ai ragazzi ritrovati. Passarono gli anni e di questa commovente vicenda rimasero come un ricordo solo i sette berretti di lana che i corvi si erano portati dal loro sperduto rifugio, a memoria di quei brutti tempi. Ma, per fortuna di tutti, nel sacchetto vi erano diverse pietre che si rivelarono preziose e, dopo essere state vendute, permisero a tutta la famiglia di mettere da parte un bel gruzzoletto e vivere più agiatamente che in passato, anche se la cosa più importante rimase certamente per loro l'armonia ritrovata dopo tante sofferenze.